5A. Ascolta e rispondi. Hai mandato gli auguri ai professori? Sì, glieli ho mandati. Hai chiesto gli indirizzi ai compagni? Sì, glieli ho chiesti. Hai prestato i libri ai ragazzi? Sì, glieli ho prestati. Hai prenotato i biglietti per i tuoi genitori? Sì, glieli ho prenotati. Avete inviato le cartelle alle vostre amiche? Sì, gliele abbiamo inviate. Avete mostrato le foto alle ragazze? Sì, gliele abbiamo mostrate. Avete raccontato le vostre avventure alle signore? Sì, gliele abbiamo raccontate. Avete espresso le vostre congratulazioni alle vincitrici? Sì, gliele abbiamo espresse.